Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze, dissonanze. Two-thirds a person, rapings and beatings and suffering and worsens. Black human packages, piled up dreams. How did you come from all these kinds of things? Sumaila Sako! Giustizia! Emmanuel Cidi Namdi! Giustizia! Becky Moses! Giustizia! Jennifer Otiato! Giustizia! Gideon Azeke! Giustizia! Mohamed Touré! Giustizia! Wilson Kofi Mabon! Giustizia! Amal Fadera! Giustizia! Tutti uccisi! Perché avevano la pelle nera, tutti uccisi per il razzismo. Io non sono bianca, si vede. Mio padre non è bianco e lo si vede. La mia famiglia non è bianca e lo si vede. E quando io sono con i miei fratelli e ci fermano sulla base del nostro colore per chiederci il permesso di soggiorno, dando per scontato che noi non siamo italiani, quello è l'occhio egemonico dell'uomo bianco che in questo paese pensa che per essere italiani si deve essere bianchi. Sì, George Floyd, ok, George Floyd, deve essere però un punto di partenza. Deve essere un punto di partenza per fare attività di autocritica, partire da tutto quello che in questo paese non funziona. Un immigrato in questo paese difficilmente riesce ad accedere a un contratto di locazione. Ma poi la stessa città di Napoli che decantava porti aperti quando nel momento in cui c'era la crisi doveva dare i cosiddetti sussidi, ha richiesto la residenza, Waiyo, la residenza, tagliando fuori non si sa quante famiglie che vivono in questa città, che lavorano in questa città, che hanno i figli, che sono napoletani. Black rage is founded. Let us self-hatred, lies and abuse. While we waited and waited, spiritual treason, this grid and its cages, like rages founded on these kinds of things. Anch'io sono un'italiana di seconda generazione, nata da genitori marocchini. Per buona parte della mia vita mi sono sentita dire che il colore della mia pelle è più chiaro di quello di altri, di conseguenza la razzializzazione non l'ho vissuta completamente. Bene, dear white people, cara gente bianca, non è così, perché in questo paese non basta essere qualche tonalità più chiara del nero per non essere razzializzati. Quando pensiamo a George Floyd, pensiamo in realtà alle mille forme in cui il razzismo si manifesta quotidianamente per le persone nere. Ci chiediamo se non ci fosse stato quel telefono a riprendere la scena, se questa rabbia sarebbe comunque entrata e stata condivisa anche nelle nostre case. Il razzismo non ha origini recenti. La schiavitù, la segregazione razziale e la colonizzazione sono pagine nere della nostra storia, di cui alcuni devono ancora scontare i rigurgiti. Negli Stati Uniti il 13% della popolazione è nera, mentre il carcere lo è quasi il 40%. Nascere neri rappresenta possibilità minori di accedere alle cure mediche, alla formazione, a un lavoro a lungo termine. La violenza da parte della polizia nei confronti degli afrodiscendenti e delle comunità ispaniche sono sistematiche di una società fondata sulla discriminazione razziale. Gli episodi per i quali una persona nera è stata uccisa per un malinteso, per l'uso eccessivo della forza durante un fermo della polizia, non si contano più. In questi giorni Breonna Taylor avrebbe compiuto 27 anni se la polizia non l'avesse frettata. Se la polizia non l'avesse frettata facendo irruzione in casa sua. I nativi, i discendenti delle popolazioni autoctone dell'America Latina vivono in condizioni simili di discriminazione. In Spagna una nuova ondata di fascismo sta rendendo la vita di queste persone una costante lotta per l'accesso ai mezzi economici, rese ancora più difficili dalla pandemia globale alla quale stiamo assistendo. In Palestina Israele sta attuando un genocidio. I militari e la polizia in alcune zone sparano a vista chiunque somigli vagamente a un arabo. L'Italia è un paese che da più di 20 anni subisce flussi migratori che dovrebbero trasformarlo in un paese in cui l'integrazione e la multiculturalità trovano il suo spazio. Anche qui invece gli episodi di razzismo sono causa e conseguenza della leadership di destra, che ha fondato negli ultimi 5 anni la sua propaganda elettorale sull'incolpare l'immigrazione della crisi e dei livelli di disoccupazione in questo paese. Un populismo becero che ha partorito episodi di supremazia bianca come quello di Luca Traini o quello che ha portato all'uccisione di Soumaila Sakho. Adesso qualcuno sta parlando di regolarizzazione del lavoro agricolo, come se il caporalato dell'1 euro al cottimo non andasse avanti da decenni, come se i fusché proposti dalla Coldiretti, che non prevedono ferie e malattia, potessero essere una soluzione dignitosa per gli irregolari in Italia. È imprescindibile per noi rivendicare la libertà di movimento, la regolarizzazione di tutti i migranti presenti nel territorio, la chiusura dei CPR dove non esistono diritti umani e le violenze vengono consumate quotidianamente. E la cittadinanza per le seconde generazioni. Eppure in questo paese la cura degli anziani e dei bambini è quasi completamente affidata a donne migranti. Ma come funziona? A una donna vissuta più di metà della sua vita in un altro paese affidiamo l'educazione dei nostri figli, ma ai suoi di figli non riusciamo a riconoscere nemmeno un diritto. Questo è il mese del Pride, volevo chiudere con questa cosa. Pride nasce grazie ad una donna nera, una transessuale, una sex worker. Ricordiamoci questo, Marsha Johnson vive con noi. Progress of human contortion. Black rage is founded on these kinds of things. When the dogs bite, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't feel so bad. Peace out. I just want to say this. The world is changing. So everybody living in this world have to accept that the world is changing. Yes. There is no place for racism. Yeah. There is no place for racism. Mm-mm. There is no, you don't have to see black or white or whatever. We're all human beings. We're all from Adam and Eve. Woo-hoo! So I have this little thing to say. I'm like, temperature rise, I'm out of patience. I'm an eye opener for my generation. A wake up call for the young population to guide them out from the Western pollution. They're catching us, they're killing us. God damn, they don't like us. They poison us and we just die. They sit back and they laugh at us. Treat us like our forefathers. We screaming black life matters. They ignore us and they keep pushing harder. They keep pushing harder. Like we slave then, we slave now. We don't want to be their slave forever. I'm a son of Adam, they're son of Adam. Why they want to push us on the bottom? They put us in the market, they turn our blood. So I can need rip our heart. Guess we are healthy, they need our heart. Peace out. R.I.P. for the broader point. R.I.P. Rest in peace. There's a heaven for a G, and I wish there's a heaven for him. And I pray that he rests well over there. And let the world never encounter things like this again. Revolution, one love. R.I.P. to the broader. One life matter. One life matter. Black life matter. Our life matter. Peace out. Thank you very much for giving me this opportunity to talk to you. Peace out. To the J. Edgar Hoover building, motherfucker, but we finna go fed. Let's they go. Kill us for sport just like they hunt. Fucking feel like black life ain't nothing. Swear to God, I'm so sick of this shit. I'ma protect me and my people. You must be a fool if you think I ain't dumb. Officer, crooked officer. They in Dallas trying to blow the badges off. No justice for me. Woo. It's us against police. Woo. Every time I turn around, they shoot another person. Sonny, get down! In silenzio, che noi non ci ascoltassimo fra fratelli, hanno voluto dividerci, hanno voluto separarci, hanno voluto impartirci ignoranza che ci garantisse la possibilità di non essere noi stessi. È questo che volete? No! È questo che volete? No! Sto parlando con voi, cazzo! È questo che volete? No! Perfetto. Black lives matter. Ok? They have always mattered, ok? Sempre, sempre. Non è oggi che ce lo dovremmo dire, non era ieri, era 100 anni fa, 200 anni fa, 500 anni fa, un sacco di tempo fa, ce lo saremmo dovuti dire. Dobbiamo proteggerci tutti, tutelarci a vicenda, vedere il nero per strada che viene denigrato e dire, oh, ma che cacchio stai a fare? Ma ti sembra normale il trattamento che stai infliggendo a questa persona? Ma ti sembra normale? Assolutamente no! E noi che facciamo? Vediamo queste persone che vengono trattate una merda in ogni tipo di contesto. E noi che facciamo? Facciamo come diceva Virgilio all'inferno. Non ti curar di loro, guarda e passa. No justice. Non va bene. Non va bene. It's us against police. Every time I turn around and shoot another brother down in these cold, cold streets. Can't even go where I wanna go, cause I might not even make it to the corner store. Maybe we all gon' get shot, I don't even know no more. They kill our kids, it seems like. Io nelle ultime settimane continuavo ad informarmi e ad aspettare che fosse organizzata una manifestazione, e appena ho saputo di questa ho subito, mi sono organizzato e ho fatto in modo di venire anche da solo. I miei amici purtroppo non ci sono e do loro il beneficio del dubbio che effettivamente avessero qualche impegno, perché ragazzi è doveroso partecipare e io in quanto bianco mi sento toccato personalmente da questa cosa. Io non capirò mai quello che devono subire le persone nere, perché non sono nero, però mi sforzo quando sento queste notizie. Io ci penso, mi metto la mano sul cuore e rifletto. Sicuramente non capirò al 100%, ma almeno è un passo. Ma in fin dei conti, dove parte il razzismo fondamentalmente? Un bambino non nasce razzista. I bambini non sono razzisti, non sono cattivi, vengono educati in questo modo, vengono inculcate determinate cose, per questo è sbagliato. La speranza non deve morire e noi un domani, quando avremo dei figli, alle nostre famiglie, dobbiamo parlare, li dobbiamo educare. L'altro giorno ero su Instagram, ho visto uno dei tanti video che stanno girando di una bambina, avrà potuto avere, non so, 2 anni, piangeva e diceva alla madre: sono così brutta. Una bambina di 2 anni che deve dire sono brutta, mamma. Una bambina non deve preoccuparsi di queste schifezze. Il cambiamento è necessario, ed è necessario ora, ed è assurdo arrivare nel 2020 ancora a ripetere queste cose. Quindi pensiamo al mondo in cui vogliamo vivere, in cui vogliamo che i nostri figli vivano. Come si fa ad essere indifferenti a questo? Non è George Floyd, sono tanti come lui, sono davvero tanti, sono numeri spaventosi, ma nel momento in cui un uomo per terra dice aiuto, non respiro, ma come fai a continuare in questo modo? Come? Affrontiamo questi discorsi, anche quando non siamo supportati, anche di fronte alle persone che non la pensano nello stesso modo, noi combattiamo, discutiamone, perché il silenzio non aiuta ed è bellissimo vedere tante persone oggi che partecipano. No justice, no peace. It's us against police. Every time I turn around and shoot another brother down in these cold, cold streets. No justice, no peace. It's us against the police. I be damned if I don't ride. I promise I don't wanna die. If I do, R.I.P. to me. Tutti quanti prendessero i vostri smartphone, iPhone, Samsung, Huawei, quello che avete, e aprite Instagram e fate un live dedicando un minuto di silenzio alla morte di George Floyd, morto solo perché era nero. Prendiamo i telefoni, why you? Ragazzi, con Instagram. Se credete veramente in questa cosa qui. Say his name! George Floyd! Say his name! George Floyd! Say his name! George Floyd! E tutti gli altri nominati, ragazzi. Grazie. If I don't ride, I promise I don't wanna die. If I do, R.I.P. to me. No justice, no peace. It's us against police. Every time I turn around, they shoot another brother down in these cold, cold streets. No justice, no peace. It's us against the police. Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze, dissonanze.